أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera. Siete collegati con questa nuova trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Oggi è martedì 28 settembre, sono da poco passate le 19 e come dicevo prima siete in collegamento con questa nuova puntata di Andala. Tra l'altro con noi in studio, diciamo, anche se da remoto, c'è Davide. Davide, ci sei? Sì, buonasera a tutte e tutti. Perfetto, allora io direi di fare un attimo un sommario di questa puntata che ci apprestiamo a trasmettere, durante la quale appunto parleremo del fatto che il 28 settembre del 2000, quindi proprio oggi, ricade il 21esimo anniversario dallo scoppio della seconda intifada. Purtroppo però dobbiamo anche riferire di 5 palestinesi che sono stati uccisi proprio 2 giorni fa, nella giornata di domenica. E una notizia che invece ci fa molto piacere: sempre 2 giorni fa, domenica, è tornata in libertà la compagna Khalida Jarrar. Anche se insomma qui in Italia comunque vediamo aleggiare come al solito la repressione, tant'è vero che la settimana scorsa è stata appunto confermata la misura di sorveglianza speciale per la compagna di Torino, Eddie, che si è molto spesa per la liberazione delle donne curde, non solo, e purtroppo il tribunale ha preso questa misura infame che ha tanto il sapore del fascismo. Sempre in tema di Palestina parleremo dell'uccisione di Nizar Banat, avvenuta appunto durante quest'estate, perché sono stati letti i capi di imputazione durante il processo ai 14 agenti dell'intelligence dell'ANP, quindi approfondiremo pure questa questione. E in ogni caso, nei giorni scorsi comunque all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato il presidente dell'ANP, Abu Mazen, in cui ha minacciato di revocare il riconoscimento dello Stato ebraico se Israele, insomma, non si ritirerà dai territori occupati. Quindi Abu Mazen ancora una volta minaccia, come dire, di revocare gli accordi di Oslo, anche se difficilmente, insomma, arriverà a questa conclusione. E poi, insomma, sempre sul tema, anche Bennett è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui appunto ha paventato l'ipotesi di una nuova guerra con l'Iran, proprio sulla scia della trattativa sul nucleare tra Washington e Teheran. Quindi Davide, io direi di iniziare proprio parlando di quello che è avvenuto il 28 settembre del 2000, in cui scoppiò la seconda intifada. Sì, bene, il 28 settembre del 2000 in Palestina scoppiò la seconda intifada e lo scoppio era dovuto ad una tensione ormai risonante, accumulatesi rispetto ad avvenimenti che risalivano già dal 1993 e le cui cause furono la continua occupazione e lo stato di apartheid vissuto dai palestinesi. La scintilla che innescò la seconda intifada fu la marcia provocatoria di Ariel Sharon sulla spianata delle moschee. La passeggiata nasceva con l'intento di piegare la volontà dei palestinesi e di imporre la sovranità sionista su uno dei luoghi più sacri dei musulmani. Possiamo fare anche delle analogie con l'oggi, sebbene la causa palestinese, soprattutto da parte palestinese, ci siano state delle evoluzioni diverse, non siano paragonabili i due periodi storici. In risposta a questa provocazione di Sharon si sollevarono in Palestina numerose proteste che furono represse nel sangue dalle forze armate israeliane, che uccisero più di 4.000 civili palestinesi. Tra gli episodi più sanguinari di cui si sono macchiate le forze sioniste è da ricordare il massacro passato il massacro compiuto nei campi profughi di Jenin, che comportò la morte di più di 50 palestinesi. I carri armati schiacciarono i bambini. E su questi fatti Mohamed Bakri ha realizzato un documentario, Jenin Jenin, la cui produzione è tuttora vietata dalle autorità sioniste. Dal punto di vista politico, l'intifada rifletteva un sentimento di rabbia e frustrazione dovuto al mancato miglioramento che ci si immaginava sarebbe dovuto venire dopo gli accordi di Oslo, e che invece al contrario aveva indotto a un inasprimento delle politiche coloniali sioniste, con la creazione di un meccanismo di dipendenza economica e politica palestinese dall'occupante. Sentendosi traditi, i palestinesi fissarono come obiettivi la risoluzione del problema di Gerusalemme e dei profughi palestinesi, il perseguimento della costruzione dello Stato come frutto di una vera lotta per l'indipendenza e lo smantellamento del sistema di oppressione delle politiche di occupazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU condannò l'uso della forza da parte delle forze di occupazione contro i civili palestinesi, istituendo una commissione addetta all'investigazione sugli eventi. Come ulteriore strumento di repressione di apartheid a seguito dell'intifada, il governo sionista decise di costruire il muro della vergogna, dimostrando così di non avere risposta alla lotta palestinese, che non sia attraverso la violenza e la repressione. Abbiamo ripreso un po' il post dei giovani palestinesi in Italia per ricordare quella che è stata la seconda intifada e come alcuni dei motivi che portarono a quella rivolta sono ancora oggi attuali, anzi possiamo dire che l'occupazione è aumentata, quello che già agli occhi del popolo palestinese sembrava un inganno, Oslo è diventato la realtà. La realtà infatti è fatta di morte, di occupazione come testimonia anche l'uccisione dei 5 palestinesi che è avvenuta domenica, ed è avvenuta proprio a Jenin. Di Jenin era anche Zakaria, uno dei 6 evasi palestinesi dal carcere israeliano di cui vi abbiamo parlato nelle settimane scorse e poi ripreso, ed era proprio uno di coloro che guidarono i gruppi armati Tazim contro l'occupante israeliano. Dicevamo, domenica nelle prime ore dell'alba le forze di occupazione sioniste hanno effettuato dei raid nell'area di Jenin, Gerusalemme e Cisgiordania, uccidendo 4 giovani palestinesi. Il Ministero della Salute palestinese ha comunicato che i martiri uccisi sono Hamad Zahran, Mahmoud Hamidan e Zakaria Badouan del villaggio di Beit Hanan, mentre la quarta vittima è identificata Osama Sobo, ucciso da un colpo alla testa nel villaggio di Burkin. Inoltre il portavoce del ministero ha aggiunto che ci sono notizie di un quinto palestinese ucciso, Youssef Mohamed Sob, un ragazzo di 16 anni, di cui stanno attendendo la conferma siccome i corpi sono ancora trattenuti dall'esercito sionista. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, questo ragazzo di 16 anni è stato ucciso dopo che le forze di occupazione sioniste hanno fatto irruzione nel villaggio di Burkin e circondato una delle case palestinesi, provocando uno scontro a fuoco con i residenti, ferendo 8 civili palestinesi, di cui uno gravemente. Zahran, Hamedan e Badouan sono stati uccisi invece durante uno scontro armato con l'esercito sionista, dopo che hanno fatto irruzione nel villaggio di Beit Hanan, vicino a Bidu. Raid e arresti sono stati segnalati anche nei villaggi di Jenin, vicino Jenin, di Kufdan e Yaba. I media sionisti hanno affermato che i raid militari miravano semplicemente ad arrestare operativi di Hamas e che anche 2 dei loro soldati sionisti sono stati feriti durante gli scontri. Inoltre il portavoce delle forze di occupazione sioniste, Ran Kochkab, ha affermato che teme che il movimento di Hamas possa vendicarsi delle morti e degli arresti dei suoi membri con il lancio di razzi dalla striscia di Gaza, cosa che poi non si è verificata. Già il mese scorso l'esercito sionista ha ucciso 4 palestinesi nel campo profughi di Jenin durante un'operazione che ha portato a scontri armati. In un momento come questo possiamo solo stringerci quindi al dolore delle famiglie per la loro perdita e continuare a denunciare le ripetute violazioni e azioni criminali che il popolo palestinese continua a subire dall'entità sionista. Bene Davide, nel frattempo che appunto come dicevamo tutti i territori sono in subbuglio proprio a causa degli ultimi accadimenti, 2 giorni fa le autorità sioniste hanno rilasciato al checkpoint di Salem Khalida Jarrah, deputata palestinese del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Jarrah, parlamentare, attivista e attivista per i diritti delle donne, si trovava in cella dal 31 ottobre del 2019, giorno in cui fu arrestata perché colpevole, secondo i giudici della Corte Militare di Hofer, di incitamento alla violenza e di appartenenza ad un'organizzazione illegale, appunto il Fronte Popolare per la Liberazione, della Palestina, la principale formazione della sinistra palestinese. Per tali accuse, la deputata è stata condannata a 2 anni di carcere lo scorso marzo, di cui aveva già trascorso in cella 1 anno e 4 mesi. Prima della condanna, ha trascorso diversi periodi di detenzione amministrativa, il cosiddetto carcere senza processo. Il suo primo arresto risale al 1989. È un'odissea. Mia madre ha soltanto denunciato l'occupazione israeliana e chiesto libertà per il nostro popolo, disse sua figlia, sua, denunciando il sopruso israeliano il giorno della condanna a marzo. La giovane è purtroppo detenuta. Deceduta di recente, scusatemi, a metà luglio per cause naturali. Khalida ha preso la notizia della scomparsa di sua figlia mentre si trovava in carcere e le autorità sioniste le hanno cinicamente impedito di assistere ai funerali, nonostante le sue richieste. Un gesto ignobile che rispecchia la natura infame dell'entità sionista. Mi hanno impedito di dirgli addio, di darti addio con un bacio. Allora ti dico addio con un fiore, scrisse Khalida alla figlia da dietro le sbarre. Oggi Khalida può finalmente tornare a respirare la libertà, ma con un peso enorme sul petto. Ora potrà finalmente visitare la tomba della sua amata figlia, che, come lei, intraprendeva lotte sociali a favore dei palestinesi e della lotta femminista palestinese. Khalida Jarrah ha sempre inoltre sostenuto le istanze dei prigionieri politici palestinesi, come lei. Oltre a Jarrah, infatti, 7 deputati palestinesi eletti sono attualmente detenuti dagli israeliani. Secondo le ONG per i prigionieri a Dahmer, a gennaio erano i 4.400 i prigionieri politici palestinesi, tra cui 37 donne e 160 minori. Happiness one step beyond in a very dumb version. Uscire si sposta a staterne e mi porta lontana. Niente cattura di fiera, mo passa pa mano. Bello mestiere d'ore, prima pensando che a me cattura di fiera che matura ma non c'è bene c'è bussata lì sole non c'è niente male bella regina rossa sento che parlo di te come compagno si morte tu sento un re sto sorda Siento que parlo de ti, frío que huele a fornuda, cielo, tu spostata terra e mi porta lontano. Niente cattura di fierro, mi passa la mano. Vita va! E chi insamava, che paccheri dall'ava. Finisce a comando, come ogni esecuzione che si rispetti, tipo come quello rispetto della legge. Comandate per cortesia il finale, basta dire mo. Bene Michele, ritorniamo in diretta perché purtroppo dobbiamo, come vi dicevamo in apertura, dobbiamo darvi questa brutta notizia, o meglio della conferma della misura della sorveglianza speciale nei confronti di Maria Edgarda Marcucci, meglio conosciuta come Eddie. Questo per aver osato prendere pubblicamente la parola a Pordenone e pochi giorni fa infatti era stata denunciata dalla Digos per aver osato prendere la parola a Pordenone, e oggi è arrivata la notizia, o meglio 5 giorni fa, dalla Cassazione del suo ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Torino che le ha inflitto la sorveglianza speciale. Quindi dopo la sconfitta in appello del 2020 anche l'ultimo tassello della giustizia italiana si chiude decretando la pericolosità sociale di una delle persone che più hanno ispirato approvazione e ammirazione in Italia negli ultimi anni. Infatti vi leggiamo un po' il post che ha fatto Davide Grasso su Facebook, uno degli italiani che ha combattuto in Siria a fianco del popolo curdo mettendo in gioco la propria vita, e infatti come vi dicevo la Cassazione ha affermato che Eddie è pericolosa perché dedita ad attività illecite in Italia, riferendosi a episodi come apericene per chiedere il pagamento dei salari ai lavoratori della ristorazione o verbali di Trenitalia su biglietti non pagati e potreste verso i controllori. Eddie è incensurata, teniamolo sempre a specificare. Anche per questo l'avvocato Claudio Novaro aveva eccepito che se si usano sospetti e ipotesi di reato, magari confezionate dalla polizia politica, per definire la pericolosità della persona, la stessa garanzia di una divisione dei poteri sembra negata. La Cassazione, come già il Tribunale di Torino, ha riaffermato che invece le regole del giusto processo non valgono quando il procedimento pertiene alla sezione speciale che ogni tribunale italiano ha, a 70 anni dalla fine del fascismo. La sezione per le misure di prevenzione istituite, stiamo parlando della sezione di misure per le prevenzioni istituite da Mussolini nel 31 ed emendate nell'epoca di Scelba nel 56 e Berlusconi nel 2011. Ogni anno in Italia migliaia di persone vengono sottoposte a sorveglianza speciale, privati del diritto di muoversi, riunirsi e parlare in pubblico, senza accuse e senza processo, sulla base del pronostico che polizia e magistratura formulano sulla loro futura condotta, sulla base di una descrizione della loro personalità. Questa misura viene spesso applicata a persone che vivono nella marginalità sociale e sempre più spesso ad attivisti politici. Non risultano infatti applicazioni a figure ben note e potenti che hanno già collezionato sentenze e accumulato responsabilità gravissime contro l'intera società, o verso ben noti militanti di estrema destra, o verso ex poliziotti, sindaci della Lega che sparano alla gente per strada. Come afferma Davide Grasso, credo che i giudici non stiano perdonando ad Eddie di aver portato bene, purtroppo c'è stata un'interruzione per problemi tecnici e come stavo dicendo leggendo il post di Davide Grasso, lo Stato italiano non ha perdonato ad Eddie il suo attivismo, un attivismo giusto che si pone al fianco del prossimo, delle lotte femministe e soprattutto del popolo curdo. Questa storia era iniziata, come riprendendo il post di Davide, con 5 persone proposte per la misura cautelare della sorveglianza speciale perché nella rivoluzione confederale siriana tra il 2016 e il 2018. Proprio quando il procedimento è iniziato nel 2019, il martirio di Lorenzo Orsetti con la stessa uniforme di Eddy aveva condotto l'opinione pubblica dalla nostra parte, mettendo in grave difficoltà la Procura di Torino. I giudici hanno infine deciso di infierire su una sola persona, l'unica donna tra i proposti, affermando che la sua pericolosità non è tanto dovuta all'aver usato le armi in Siria, ma all'aver usato la propria voce nelle strade e nelle piazze in Italia. Le sue attività qui, sempre più critiche e pacifiche, sono bollate come pura violenza nelle carte dei giudici, i quali naturalmente mentono, snaturando pensiero e linguaggio, oppure non sanno in alcun modo di cosa stanno parlando. Anche ora che si è confermata la volontà repressiva verso la vita di questa donna italiana, verso questa amica, anche ora che la polizia comincia ad imbastire contro di lei ulteriori processi per aver rotto le limitazioni alla libertà di espressione che le sono scandalosamente imposte in base a una norma fascista, ebbene anche ora l'arroganza dello Stato contro la voce, la figura e la storia di Eddy è sintomo di una specie di paura. Non perché sia violenta, ma perché non si è piegata. Non perché sia pericolosa per la società, ovvero per tutti noi, ma perché denuncia il pericolo di restare in silenzio. Non perché sia una criminale, ma perché afferma che non si deve restare passivi, a costo di pagare un prezzo di fronte ai crimini veri, reali e gravissimi del nostro tempo. Ora più che mai Eddy non deve essere lasciata sola da chi in questo paese ama la libertà, e quindi non possiamo che stringerci a fianco ad Eddy e a tutte le compagne sottoposte a questa misura fascista. Benvenuti gli immigrati, benvenuti i rifugiati, benvenuti. Andiamo a Lampedusa. Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità, qual è la sua dignità? Porta della vita, porta dell'Europa. Lampedusa ad aprile era vuota, solitaria e remota. Noi sull'isola in cento, con un unico gruppo, cantavamo nel vento. E non si deve sapere, non si può raccontare. La dignità in cammino e oggi viene dal mare. C'è stato un naufragio nel viaggio. Chi sono gli extracomunitari? C'era il sole gabbiani, c'erano i pescecani. C'eravamo anche noi, migranti e lampedusani. Stessa felpa nera col cappuccio a salutare una sorella che era una pantera nera, adesso un cruccio. 23 aprile, su quel pontile, da poco ripartito il mercantile. Ora so, a Lampedusa è crudele il destino. Qui è un mare bellissimo, ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare. Quanta verità dalla nave prima. Quanta dignità, Lampedusa lo sa. Che frega un cazzo agli italiani da fare. La, la, Lampedusa lo sa. La, la, Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità? La Lampedusa lo sa, si spezza il pane, non si lascia annegare, non si lascia una barca, 4 giorni in mezzo al mare, bloccata lì da una corvetta militare, 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore a cui parlare, mentre i turchi 13 marinai si lanciavano in soccorso, hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe, davanti a onde altissime, la nave Lavinia li puntava contro un missile, bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi per respingerli in Libia con la paura negli occhi. Lampedusa lo sa, non è un reato migrare, stasera sarà un ponte, non una barriera esemplare. Migrano balene e gli uccelli migratori, migrano gli esseri umani e io non calmo i miei bollori. Saliti a bordo, saliti nell'inferno, il più assassino di tutti è senza dubbio il governo. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave piena, quanta dignità Lampedusa lo sa, che frega. Le nostre braccia aperte come finestre, questa canzone la dedichiamo ad Esther, a un funerale pieno di digos, ma anche di fratelli con cui condivido il grido, perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto, puoi capire che mi ci catapulto e mi suona nella testa come un antifurto. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Les gens qui passent, les familles ont de l'espoir. Te vois dans une autre Davide, ritorniamo sul caso dell'uccisione di Nizar Banat, di questo attivista che è stato ucciso dall'intelligence dell'ANP, però la protesta contro Abu Mazen continua. Infatti, come riporta pure Michele Giorgio, alla ripresa del processo sono stati letti capi di imputazione a carico dei 14 agenti dell'intelligence dell'ANP accusati di aver picchiato a morte l'attivista palestinese e oppositore di Abu Mazen. Tutti si sono proclamati innocenti. Il pugno di ferro delle forze di sicurezza dell'autorità nazionale non ha scoraggiato i tanti palestinesi che protestano per l'uccisione di Nizar Banat, un oppositore del presidente Mahmoud Abbas, anche conosciuto come Abu Mazen, pestato brutalmente durante il suo arresto il mese scorso. E resta alto lo sdegno per gli abusi e le molestie compiuti a Ramallah da agenti dell'intelligence palestinesi sulle donne che hanno partecipato alle manifestazioni. Nel frattempo, Davide, appunto, il presidente dell'ANP ha parlato all'Assemblea dell'ONU e ha minacciato di revocare il riconoscimento dello Stato ebraico fatto dall'OLP dopo gli accordi di Oslo. Sì, il 25 settembre infatti è intervenuto all'ONU, ha minacciato di revocare il riconoscimento allo Stato ebraico, ma nei territori occupati le parole di Abu Mazen sono state accolte nel disinteresse della popolazione, che in gran parte non si riconosce più, chiede le sue dimissioni. Israele da parte sua ha ignorato l'ultimatum, in quanto proprio ieri Banat ha parlato all'Assemblea dell'ONU e Abu Mazen, invece, le parole di Abu Mazen sono state che l'occupazione israeliana impedisce il raggiungimento di una soluzione a due stati, ha detto Abu Mazen, aggiungendo che se non ci saranno cambiamenti, la comunità internazionale e le circostanze sul campo imporranno diritti politici uguali per tutti sulla terra della Palestina storica all'interno di un unico Stato. Forse è quello che chiedono tutti i palestinesi. Quindi si è detto comunque pronto a negoziare ancora una volta durante i prossimi 12 mesi e sulla base delle risoluzioni internazionali, i confini dello Stato palestinese che dovrà sorgere accanto a Israele, era il riferimento alla risoluzione 242 delle Nazioni Unite. Il risveglio dopo le dichiarazioni di Abu Mazen non ha portato ai risultati che il presidente dell'ANP e il suo entourage si aspettavano, in quanto la popolazione si è mostrata disinteressata rispetto alle parole e ai toni utilizzati bellicosi di Abu Mazen. Anzi, con qualcuno ha anche ridicolizzato le affermazioni di Abu Mazen. Sui social, con sarcasmo, alcuni hanno scritto che il presidente dell'ANP è pronto alla lotta armata. Nessun palestinese infatti crede che Israele prenda in considerazione l'ultimatum e accetti di ritirare i suoi soldati e gli israeliani, infatti alcuni ancora sull'ironia verso Abu Mazen, come riporta anche Michele Giorgio, affermano che gli israeliani sono stati presi dal panico dopo l'ultimatum del presidente, ha scritto su Twitter uno studente palestinese. La popolarità di Abu Mazen ormai è ai minimi storici e secondo un sondaggio apparso nei giorni scorsi l'80% dei palestinesi vuole le sue dimissioni, un dato su cui pesa la dura repressione delle proteste di migliaia di palestinesi per, come dicevi anche prima, per l'omicidio di Nizar Banat. Abu Mazen ha forse voluto mandare anche un messaggio comunque a Joe Biden, che proprio all'ONU a inizio settimana ha da un lato ribadito il sostegno alla soluzione a due stati, dall'altro ha detto ai palestinesi di aspettare, schierandosi difatti sulle posizioni del premier israeliano Bennett, secondo il quale al conflitto non c'è soluzione nei prossimi anni. E dicevamo proprio di Bennett, alle parole infuocate di Abu Mazen, come ci scrive proprio oggi Michele Giorgio, lo stesso Michele Giorgio, non sono stati minimamente citati i palestinesi nel discorso di Bennett, che ha citato più di 20 volte la parola Iran, ma la parola Palestina, palestinesi, non è mai stata citata nel suo discorso. Infatti, sale la tensione tra Israele e l'Iran, in quanto mentre la trattativa tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano sembra giunta a un punto morto, infatti il premier Bennett all'Assemblea generale dell'ONU ha avvertito che Israele è pronto a tutto pur di impedire all'Iran di costruire la bomba atomica. Teheran da parte sua ha replicato che è proprio Israele a possederne una in segreto, e Bennett, vi dicevo prima, non ha mai pronunciato ovviamente la parola Palestina, ha ignorato l'ultimatum lanciato da Abu Mazen ed ha portato invece disegni di bombe sul punto di scoppiare, come fece qualche anno fa il suo predecessore Benjamin Netanyahu, per denunciare il programma nucleare iraniano. Il tono da guerra che il premier israeliano ha usato per gran parte del discorso quindi non lascia dubbi sulle sue intenzioni, come ci dice il buon Michele. Infatti il programma nucleare iraniano, secondo Bennett, è un punto critico. Tutte le linee rosse sono state superate, l'Iran sta violando gli accordi di salvaguardia dell'AIA e se la cava. Gli iraniani maltrattano gli ispettori, sabotano le loro indagini e la fanno franca. Arricchiscono l'uranio al 60% e la passano liscia. Queste sono le parole di Bennett. Quindi all'ONU Bennett non ha solo voluto ribadire che il suo governo non esiterà ad attaccare l'Iran se e quando lo riterrà necessario, anche senza la partecipazione degli USA. Questa opzione ha lasciato capire che si è fatta più concreta e vicina il piano B, l'attacco militare discusso qualche settimana fa con Joe Biden alla Casa Bianca. Giorno dopo giorno questo piano però sembrerebbe prendere il posto del piano A, prendere il posto al piano A, che è il piano della diplomazia. Quindi la tensione resta alta l'aver ignorato ovviamente le dichiarazioni di Abu Mazen sono un chiaro segnale del fatto che gli israeliani non hanno nessuna intenzione ad aprire una qualsiasi ipotesi di negoziato e a modificare lo status quo sul terreno, anzi quello che si apprestano a fare è solo l'implementamento dell'occupazione, in quanto l'aver ignorato le dichiarazioni palestinesi è avvenuto anche a poche ore di distanza dall'avvio di una campagna repressiva in Cisgiordania di cui vi parlavamo all'inizio, che ha portato alla morte di 5 palestinesi. Quindi si tratta di un'escalation che è significativa rispetto a quanto avvenuto a maggio, e quindi staremo a vedere cosa succederà, sia per ciò che riguarda la Palestina e i territori occupati, la striscia di Gaza, sia soprattutto per ciò che riguarda la guerra all'Iran. الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها ننتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها، وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة، وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب، وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها، وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى، وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمام، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما، وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما، وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى. Ebbene, ritorniamo in diretta con la chiusura di questa puntata di Andala. Vi parleremo di questo articolo scritto da Alberto Negri, sempre per rimanere in tema di guerra tra USA, Israele e Iran, e anche per parlare delle tecnologie militari, che sono un argomento che spesso affrontiamo durante le nostre trasmissioni. Infatti Alberto Negri scrive in questo articolo, che si intitola in maniera molto eloquente "Arriva da remoto la nuova sporca guerra". Obiettivo Iran. Le guerre infinite, come quella tra USA, Israele e Iran, in realtà non solo non finiscono mai, ma cambiano gli scenari con le tecnologie che trasformano i possibili campi di battaglia in poligoni di tiro dove i killer non sono più di carne e ossa, ma diavolerie elettroniche. La guerra diventa pulita, pur restando sporca assai. La morte israelo-americana adesso arriva comandata da un sistema satellitare a migliaia di chilometri di distanza, con i droni, ma anche con robot killer programmati nei minimi dettagli, quasi infallibili. Le guerre infinite, come quella tra USA, Israele e Iran, in realtà non solo non finiscono mai, ma cambiano gli scenari con le tecnologie che trasformano i possibili campi di battaglia in poligoni dove appunto queste diavolerie, come per esempio la mitragliatrice telecomandata capace di sparare 600 colpi al minuto, montata su un camioncino e azionata da remoto, così il New York Times descrive come è stato ucciso il 27 novembre 2020 nei pressi della sua casa di campagna a Besard, il villaggio a est di Teheran. È stato ucciso appunto Mosher Fakhrizadeh, scusate la pronuncia, il capo del programma nucleare iraniano appunto. E appunto nel dettaglio questo assassinio che è preceduto il 3 gennaio del 2020 da quello del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso dagli americani con un drone a Baghdad. È stato programmato tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 ai massimi livelli politici di Israele e Stati Uniti. I ripetuti incontri tra il capo del Mossad Yossi Cohen e il presidente Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo e la capa della CIA Gina Haspel. Insomma, un direttorio di killer in giacca e cravatta messo insieme da Washington e Tel Aviv, dopo che Trump aveva cancellato l'accordo sul nucleare con l'Iran, firmato da Obama nel 2015. L'intesa ai vertici per assassinare il fisico iraniano doveva avere l'assoluto assenso di Washington, perché si configurava come un potenziale atto di guerra e a Israele serviva l'appoggio americano in caso di conflitto. In poche parole, con Trump e come tutto lascia pensare anche con Biden, la pace e la guerra in Medio Oriente e dalle nostre parti sono in mano al Mossad, che ha sempre o quasi l'assenso totale di Washington. Se qualcuno viene per ucciderti, alzati e uccidilo prima, recita una frase del Talmud, il testo fondamentale dell'ebraismo. Fin dalla sua nascita nel 1948, Israele ha fatto di questo insegnamento la propria parola d'ordine, forse a causa del trauma della Shoah, scrive Alberto Negri, e della sensazione che l'intero popolo ebraico sia in costante pericolo, per cui il Mossad ha una licenza di uccidere di cui non gode nessun servizio al mondo e può condurre la sua guerra in Iran come e quando vuole. E nessun paese al mondo, se non Israele, gode di altrettanta impunità. Si chiama doppio standard, in fondo, questa è la sensazione. Siamo tutti fuori legge, tranne il Mossad. Con una tale esasperazione, sovrapposizione tra americani e israeliani di interessi, obiettivi e metodi, che già si conosceva ma che sta diventando imbarazzante, assume dimensioni sempre più ampie, in coincidenza con il ritiro americano da alcune aree del mondo. Israele è sempre più il poliziotto degli USA e coordina ormai l'alleanza definita Patto di Abramo. Anzi, come da poco annunciato dal segretario di Stato Blinken, l'alleanza verrà allargata, incoraggiando altri paesi a seguire l'esempio di Emirati, Bahrain e Marocco e stringere patti con Israele. E ha aggiunto che Israele deve essere trattato come ogni altra nazione. Per la verità, lo Stato ebraico ha una tale dotazione bellica, atomica e tecnologica che agli stati della regione conviene mangiare la foglia prima che Israele li metta nel mirino dei suoi robot. Non si può neppure essere neutrali. Di Israele devi diventare amico per forza, prima che ti faccia fuori. Le rivelazioni del New York Times arrivano tra l'altro a poche settimane dalla ripresa dei negoziati sul nucleare a Vienna, sospesi prima dell'elezione a giugno alla presidenza della Repubblica Islamica dall'ultraconservatore Raisi. Certo, se un negoziatore iraniano risulta un po' antipatico dopo la vicenda di Fakhrizzaneh, deve stare in guardia, anzi in generale sedersi al tavolo con americani e israeliani non si può farlo mai con leggerezza, e non si tratta soltanto di battute. Infatti l'ex capo del programma nucleare iraniano è stato ucciso da una mitragliatrice comandata a distanza piazzata su un veicolo, mentre su un altro erano state montate apparecchiature e telecamere per il riconoscimento facciale, una tecnologia molto precisa. Infatti lo scienziato, accompagnato davanti e dietro da una scorta armata e auto blindate, aveva il vezzo di guidare da solo la sua auto con a fianco la moglie, che infatti è rimasta illesa nella raffica della mitragliatrice robot. L'unico errore di tutta l'operazione è che sul terreno sono rimasti pezzi del robot e delle apparecchiature che avrebbero dovuto esplodere e autodistruggersi. Frammenti di tecnologia sofisticata che sono le impronte digitali del Mossad. ma di umano non c'è più nulla se non la freddezza calcolata di decisioni politiche che possono portare il mondo sull'orlo della guerra continua. Thank you. Davide, sulle bellissime note degli Stormy Six terminiamo questa trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale Telegram Radio Asilo insieme alle altre trasmissioni di Radio Asilo, e ci potrete ascoltare sempre qui su Radio Asilo in replica domani alle 11. Vi auguriamo una buona serata. Buona serata a tutti.